Eccoci. Ciao. Ciao. Ciao, buon 8 marzo. Come vi stavamo dicendo, abbiamo in studio la menestrella femminista. Non so, scusatemi, il carto da sola. E Alessia. E che suoneranno per noi innanzitutto quella che voi avete già sentito negli spot, però giustamente ci sembrava carino suonarla dal vivo adesso in apertura della maratona. Quando volete. Sì, questa è la canzone un po' simbolo del femminismo qui in Italia, a Roma, il tango della femminista. Ne andiamo orgogliose perché è proprio fatto, è stato creato qui a Roma il tango della femminista, infatti c'è pure questo testo che è molto romanaccio. E noi per l'8 marzo abbiamo modificato il testo come nostra consuetudine, però adesso insomma ve lo facciamo sentire nella versione originale, il tango della femminista. grazie, grazie. Questo era il tango della femminista. State ascoltando il martedì autogestito da femministe e lesbiche in onda per 24 ore per la maratona per l'8 marzo, la festa delle donne, la lotta delle donne. Siamo in studio con la menestrella femminista Alessia, che stanno suonando dal vivo per noi. Eccoci. Se volete andare avanti a oltranza, però. No, ma noi siamo molto molto contente di essere qui e soprattutto di aprire questa maratona, perché l'inizio è importante. Io lo so che sarà dura, insomma, stare 24 ore qui, però chi ben comincia è a metà dell'opera. E allora siamo proprio molto molto contente e vi auguriamo di avere, insomma, una giornata memorabile. Grazie. Quella di oggi sarà sicuramente memorabile per tutte, perché ci saranno un sacco di iniziative in tutta Italia. Qui a Roma l'avrete già ricordato, però io comunque lo ridico, che nel pomeriggio ci sarà la manifestazione al Pigneto, a Piazza dei Condottieri, e noi ovviamente saremo lì, sì, alle 3 di pomeriggio, sì è vero, non l'avevo detto. Perché vogliamo assolutamente, insomma, partecipare a questa lotta in difesa del nostro diritto alla salute, all'aborto, alla contraccezione, che è veramente, cioè, è sacrosanto, è una cosa che io proprio non riesco a capire come si possa tornare indietro su queste cose. È proprio una cosa, io mi ricordo quando ero piccola mia madre che faceva le battaglie per la 194, ma io ero appena nata, cioè, voglio dire, e adesso sto ancora come mia madre a fare le stesse cose, cioè è assurda sta cosa. Forse in Spagna stanno pure peggio, ma non lo so, perché qui tra ce la battiamo, tutti gli obiezioni di coscienza, insomma, stiamo messe molto male. Quindi invito tutte quante a venire alle 3 a Piazza dei Condottieri dopo un paio d'ore di sonno e quindi ci vediamo lì. Esatto, noi tra l'altro quindi colgo l'occasione per dire che saremo in diretta da tutte le piazze e le iniziative che ci saranno in Italia dalle 15:30 alle 19:00, quindi se volete chiamarci dalle piazze 06 49 17 50, ma tanto noi domani mattina e domani in giornata lo diremo e lo ricorderemo più volte. Ditemi, che cosa mandiamo in onda adesso? Che ci state suggerendo? Adesso a questo proposito avevamo un live che abbiamo fatto l'anno scorso, sì. Uh-huh. Di una canzone che parla proprio di questo, si chiama O Consultorio. È una tamorriata che diciamo originariamente si chiamava La Cantina di Zia Teresa, che parlava degli ubriaconi che bevono il vino dalla mattina alla sera. E invece noi, insomma, l'abbiamo occupato, diciamo, in qualche modo. Certo, perché non si poteva sentire. Un consultorio ce l'avete fatto dentro? Alla cantina? Abbiamo fatto il consultorio e quindi è una canzone, insomma, di denuncia sull'obiezione di coscienza, su questo problema che abbiamo qui in Italia. Quindi se la mandate. We'll be right back. qui chiacchieriamo, ma ci siamo dovute fermare perché la canzone è finita. Siamo in compagnia della menestrella femminista, state ascoltando il martedì autogestito da femministe e lesbiche, e adesso un'altra canzone invece. Sì, adesso volevamo farvi sentire questa canzone che è una delle più amate del nostro repertorio, forse perché non è proprio una canzone popolare ma una canzone pop, perché abbiamo preso una canzone pop inglese di questa cantante che si chiama Desiree, e mi piaceva tanto questa canzone, allora l'abbiamo modificata, abbiamo messo questo testo che è un testo completamente autobiografico, perché io proprio racconto quello che mi succede, che mi è successo nella vita, ma la cosa che secondo me piace alla gente è che tante persone ci si ritrovano dentro, o perché sono architette, o perché insomma vanno in giro per la strada e qualcuno gli fischia dietro, o perché sanno guidare un furgone. Zia, certo un punto sento un fischio, io mi giro e cazzo vuoi? Ma come sei contenta? Te sto a fare un complimento, mi risponde sto coglione, allora io gli dico vai, oh vai, oh detta e devo pure lavorare, sempre incontro un deficiente che mi dice architetta, come le dette di tua madre, allora io gli dico vai, oh vai, oh. Che mi dice, ma sto furgone lo guidi proprio te, ma vai! Bello vedervi ballare, perché questa canzone c'ha il suo ballettino turututu che è partito anche di là dalla regia. Sì, sì, sì, è bello. Perché no, a volte insomma, nella vita ci troviamo in queste situazioni che ci viene una rabbia, ma una rabbia che veramente quasi potremmo spaccare tutto. E allora invece magari cantando questa canzoncina uno riesce a convogliare queste energie in un bel balletto e si tranquillizza un po', perché a volte insomma bisogna pure trovare un po' una via di mezzo, no? Ma non oggi, ma non oggi, perché oggi è un giorno di lotta e quindi oggi dobbiamo essere proprio arrabbiate. Arrabbiate, sì. Poi ci fate un altro pezzo o restiamo tutte arrabbiate così fino a domani pomeriggio alle 3:30? No, no, la piazza dei condottieri. Volevamo proporvi un tema più intimo, diciamo. più tranquillo, e anzi vi chiederei di mandare una registrazione di una nostra amica attrice che si chiama Giulia Petrigno, che recita un brano dei Monologhi della Vagina di Eve Ensler, che si chiama Riabilitare la Fica. Io la chiamo fica, l'ho riabilitata fica, mi piace davvero, fica, ascoltate, fica, e immaginate, femmina, fianchi, fallo, fare, figlio, felicità e futuro, e anche i come io, come inizio, identità, immensità, isola irta e irradiata, sì, un fischio lungo, acuto, un treno che sfreccia in aperta campagna, ed eccola C, ecco il fico, il dolce frutto e insieme la foglia di fico, infine K, con la ampia e rotonda, di caverna, cantare, capezzolo, cara, casa, cammina, ci chiusa, chiusa dentro, dentro, dentro la casa al calduccio, fica, dimmi, dimmi fica, fica, dillo, dimmi fica, fica. E mo cantamme sta nuova canzone che tutte le femmine sanno impara. Sono la figa e faccio paura, e con le donne già voglio parlare, e con le donne già voglio parlare. Gente me va nomina, certe me chiamano quella cosina, n'hanno capita potenza caccia, n'hanno capita potenza caccia. Faccio paura, caso più scura della notte, ma come in cielo ci stanno le stelle, nu planetario tu a capo vorrei, nu planetario tu a capo vorrei. Femmina nasci e femmina mori, a meno che tu non sei un trans. Ma se si donna ne vai orgogliosa, pure a tua figlia ce l'ha da insegna. Ora tua figlia ce l'ha da insegna. Sono la figa e faccio paura, tutta quanta manna incontra, e a chi fa schifo si ricordi sempre che tutto mondo è uscito racca, che tutto mondo è uscito racca, che tutto mondo è uscito racca. Eccoci qua, sì, ci sono sempre più compagne qui a Radio Onda Rossa, sono dall'altra parte del vetro, qui invece la figa tira, poi qui sicuramente non manca come idea. E stiamo qui perché stiamo facendo la maratona dell'8 marzo, la maratona femminista e lesbica con la redazione dell'MFLA. Andremo in diretta in onda tutta la notte e poi tutta la giornata di domani per chiudere domani sera alla stessa ora, insomma quando finisce l'8 marzo non ce ne perdiamo neanche un minuto. E stiamo con la menestrella femminista che ci sta facendo, questa qua era bellissima, comunque noi vogliamo l'MP3 così poi il martedì ogni tanto la mettiamo per chiarire due o tre concetti, mi sembra molto molto molto più efficace di mille parole. E siamo qui in loro compagnia, staremo ancora in compagnia per un po' e poi lasceremo i microfoni a tutte le compagne che sono pronte per farvi passare una notte divertente e ricca di musica e di parole. E adesso l'ultimo brano. Ok. Che è una canzone che tratta di un argomento, insomma, veramente che non se ne può più, che sono gli stereotipi. Perché la nostra società è piena zeppa di stereotipi, io veramente, cioè, non dove giro, ne vedo uno. Ed è proprio questo, che ce l'hanno tutte le persone, le bambine, i bambini, i maschi, le femmine, le vecchie, cioè, qualsiasi categoria c'ha il suo stereotipo. Noi donne ce ne abbiamo una marea, siamo quelle sempre che non ce ne abbiamo, certo. Di più. E allora a me dispiace molto, perché lo stereotipo che cosa fa? Ti mette dentro una specie di gabbietta in cui ci entri tu da sola e poi non riesci più a uscire, e allora rimani lì incastrata e non evolvi, non vai avanti, diventi quella cosa, ed è terribile, perché poi noi abbiamo degli stereotipi veramente, cioè, orribili, cioè la donna bella, truccata, sempre perfetta, che sa fare la manager, sa pulire i pavimenti, cioè veramente cose terribili. Allora io ho contemporaneamente fatto questa canzone, pensando proprio a questo, e mi sono chiesta come si fa ad uscire da questi stereotipi. Mi sono data questa risposta: per uscire dagli stereotipi bisogna guardarsi dentro e chiedersi, ma perché? Thank you. La festa, è partito il party. Se volete raggiungerci qui a Via De Voce, Radio Onda Rossa, è l'8 marzo. Siamo in diretta radiofonica per 24 ore proprio per l'8 marzo. 0649 1750, se volete scriverci mfla@ondarossa.info. quando venite, portate da bere le patatine, qualcosa, va, i viveri, non so, o portate pure solo voi stesse e la vostra allegria. Noi siamo ancora in compagnia della menestrella femminista. Ci volevate raccontare il pezzo che è appena andato in onda? Sì, allora, questo pezzo era Ma perché, ed è stato cantato da Nicoletta, della menestrella femminista, in occasione dell'ultimo concerto di un mese fa del gruppo Femmine Femmine. Femmine Femmine è il nostro nuovo gruppo totalmente al femminile. E siamo un sacco di donne fantastiche, anzi le presentiamo, Nicoletta? Sì. Allora, sono le nostre cantanti Lisa Fiorentino e Alessandra Di Maggio, la nostra percussionista di tamburi a cornice Silvia Pierattini, ci sono io, Alessia Sibilla, alla chitarra, Nicoletta Salvi al violino e alcuni cori e voci, e poi abbiamo Patrizia Zaratti che è la nostra ballerina ufficiale. Mazza, una cifra! Siamo tante, siamo appunto tutte donne, un bel gruppo carico di energia, di femminilità, come ci piace sempre ricordare. E c'è stato questo concerto meraviglioso a Luce e Siesta e abbiamo comunque cantato alcuni pezzi della Menestrella, però volevamo regalarvi, insomma, proprio in occasione di questa festa, volevamo regalarvi dei pezzi anche tratti da questo concerto che insomma sono stati proprio già dedicati a tutte le donne, possiamo condividerli con voi. Nicoletta? No. Presento il brano che si chiama Tarantella del Gargano. Allora, queste erano Femmine Femmine. Noi vogliamo infilare, rispondere addirittura. No, non mi permetterei mai. Ma proporvi una canzone che abbiamo creato nel 2007. Altre compagne. Sì, eravamo in tante. Sono un po' le nostre voci, abbastanza casereccia, ma ci piacerebbe che ascoltaste attentamente il testo, perché potrebbe essere una proposta. Visto che avete già un repertorio, Menestrella Femminista, un repertorio, dicevi, di una ventina di canzoni, magari potrebbe essere la ventunesima, chissà. Noi se la portate in giro e la cantate un po' meglio di come la sentirete adesso, ne siamo solo che contente, non siamo per il copyright, quindi. Se largo che passamo noi, le lesbicone desta Roma bella, siamo sognanti intrepide pischelle, e le ragazze famo innamorà, e le ragazze famo innamorà, ma che ce frega, ma che ce importa, se tutto il mondo ce vo sposate, ma noi è dimo e noi è famo, da sto sistema noi se ne andiamo, ma però noi siamo quelle che gli rispondiamo ancora, meglio le fighe delle mie amiche, che questa etero società. Ci piacciono più streghe, amazzoni e guerriere, perché so sempre fiere, non so come quei baccalà, se tutte le elle vieni anche tu, così potrai goder di più. A noi ci piace de fa l'amore e non ci piace de lavora. Lella! Quando il dito un beh arriva al punto un beh, ci tocca piano un beh, ci fa godere un beh, la famo lunga, non certo breve, mia cara Lella, godi del piacere, piacere, piacere, olè! Ecco, ci assumiamo la maternità di questa cosa. È fantastica. Sì, questo fu un momento di tanto alcol, tanta solidarietà, ci siamo divertite da morire. A un certo punto eravamo in treno in questo viaggio lunghissimo e facciamo che non insomma, riscrissimo tutta la canzone un po' come fai tu. È bellissima, se mi date il permesso. Ma certo, ma voglia. No. Anche perché noi sarà Creative Commons. Creative Commons. Ovviamente la cantiamo a una certa ora, certo. In certi contesti, insomma, però avete voglia, assolutamente sì. Poetica. Ce l'abbiamo anche scritto da qualche parte, quindi sì, poi te lo giriamo poi. Bene, bene, ma guarda, io apprezzo tantissimo la creatività delle donne, perché non c'è niente da fare, noi facciamo le cose in un modo proprio bellissimo. E infatti la musica delle donne, le canzoni delle donne, secondo me non sono apprezzate abbastanza, perché sono sempre messe in paragone con le cose, diciamo, quelle ordinarie, no? Che poi sono quelle fatte dagli uomini, ma non possono essere messe in paragone, perché sono proprio cose diverse, sono bellissime. Io a tale proposito volevo ricordare a tutte che a settembre ci sarà, per il secondo anno qui a Roma, un festival di musica al femminile che si chiama Mom Festival, e in questo festival potranno suonare, saranno invitate a suonare solamente le cantanti, le artiste, le musiciste che hanno dei gruppi, insomma, che conducono loro, a prevalenza femminile. Comunque vogliamo portare la musica delle donne. Vogliamo farla ascoltare, vogliamo farla apprezzare e vogliamo che le donne abbiano uno spazio per farsi sentire, perché purtroppo appunto stiamo sempre in questi spazietti risicati, in queste quote rosa maledette che veramente non se ne può più. E allora noi facciamo questo festival, ci sarà a settembre, poi insomma vi daremo altri dettagli più in là. E intanto, se vogliamo ascoltare un altro brano di questo neonato gruppo Fimmene Fimmene, che fa la musica popolare del centro-sud Italia, che speriamo abbia un futuro insomma bello ricco, e questa canzone che vi facciamo sentire adesso si chiama Pizzica di San Vito dei Normanni ed è una pizzica salentina fatta a una velocità superiore. Wow. Eccoci di nuovo in diretta. State ascoltando il martedì autogestito da femministe e lesbiche. Questa era la pizzica salentina San Vito, suonata dalle femmine al live l'11 marzo a Luce Siesta. Febbraio, sì, ciao. Marzo deve ancora venire, stasera è 8, quindi era difficile. E noi siamo qui con loro che ci stanno salutando. Come vedete, poi sembra 24 ore, noi ne abbiamo già passato 1:17, non ce ne siamo neanche accorte perché abbiamo cantato, ballato, fatto delle belle chiacchiere. E quindi vi ringraziamo molto di essere state con noi ad aprire questa lunga maratona che si chiuderà domani sera a mezzanotte. E volevate ricordarci qualcosa? Sì, volevo ricordare che chi ha voglia di continuare a ballare, a cantare, può seguirci al concerto che faremo a Civitella San Paolo l'8, quindi oggi, insomma, stasera, diciamo l'8 sera. Verso le 9 di sera stiamo lì nella palestra del paese, perché fanno, cioè, c'è tutto il paese in festa diciamo per ricordare questa giornata. Quindi fanno il mercato delle artigiane del paese, c'è un'attrice che è di lì che recita delle cose, e poi in chiusura ci sarà il nostro concerto. Quindi per chi vuole venire a Civitella San Paolo, vicino a Fiano Romano, noi saremo lì. Ma soprattutto seguiteci sempre anche in futuro. Noi sicuramente sì. Adesso mandiamo in onda pure i vostri pezzi appena recuperiamo il disco che ci avete regalato. E noi vi ringraziamo tantissimo. Grazie a voi. Ciao. Buon 8 marzo. Ciao. Vi siete allenate? Noi siamo pronte. Lottatrici, sovversive, rivoluzionarie, prendiamo i microfoni. Anche quest'anno, per l'8 marzo, il martedì autogestito da femministe e lesbiche si misura in una sfida che richiede costanza, allenamento, determinazione e creatività. 24 ore di diretta radiofonica femminista e lesbica non stop. Sul ring, donne femministe, lesbiche, gruppi e collettivi di ogni dove, redazioni femministe di altre radio, centri antiviolenza, blogger. All'angolo il patriarcato. Ascoltaci sabato 8 marzo da mezzanotte alle 24 sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa o in streaming dal sito www.ondarossa.info. Partecipa anche tu, unisci la tua voce a quella di tante altre. MFLA @ondarossa.info, MFLA.noblogs.org.